Cronache Meridiane di Gianluca Nicoletti. Però bisogna ammetterlo, quando uno gioca col fuoco prima o poi si brucia. Che vuoi dire? Ma che non si va a fare un massaggio ai piedi alla nuova moglie di Marcellus Wallace? Secondo te non ha esagerato? Beh, Antoine probabilmente non si aspettava che lui reagisse come ha fatto, ma doveva pure aspettarsi una reazione. Ma era un massaggio ai piedi, non è niente, io lo faccio sempre a mia madre. No, e mettere le mani in modo intimo sulla nuova moglie di Marcellus Wallace. Voglio dire, è così grave come se gliel'avesse leccata, no? È lo stesso fottuto campo da gioco. Oh, aspetta, fermo lì. Leccargliela una troia e farle un massaggio ai piedi non è esattamente la stessa cosa. Non lo è, ma è lo stesso campo da gioco. Non è neanche lo stesso campo da gioco, cazzo. Ora senti, forse il tuo metodo di massaggio è diverso dal mio, ma sai, toccare i piedi di sua moglie e infilare la lingua nel più sacro dei suoi buchi non è lo stesso fottuto campo da gioco, non è lo stesso. Mi rendo conto che l'incipit è pesantuccio all'ora del soffritto, però era importante, anche perché è una delle chiavi di Pulp Fiction, film che ha fatto epoca nella storia del cinema, film di Tarantino di cui parleremo. Perché? Perché tutto nasce da un atto irrituale che avrebbe compiuto un killer nei confronti della moglie di un terribile boss e gli avrebbe fatto un massaggio ai piedi. La discussione qua sul fatto che il massaggio a piedi equivale a un atto sessuale molto più intimo, dice lo stesso terreno da gioco, cioè toccare il piede o fare un altro tipo di operazione sulla moglie del boss è equivalente a un atto sessuale profondo. Perché questo? Perché il piede è sempre stato caricato di significati profondi, misteriosi, nascosti, ma ultimamente è stato completamente sdoganato come oggetto sessuale a tutti gli effetti. Vi faccio un esempio di una questione che ho trattato qualche giorno fa. Il professor Fung Chan Wei è un professore del Dipartimento di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva di Taipei, l'ospedale di Taipei. È specializzato in persone che hanno amputato il pollice. Capita, una delle amputazioni più semplici, il pollice si strappa via e non c'è più il pollice. Lui ha fatto già un 2000 e passa trasferimenti di alluce al posto del pollice, perché pare che ormai un intervento chirurgico nasce nell'Ottocento ma è molto perfezionato. Se ti parte il pollice, la maniera migliore è prendere l'alluce a un piede e metterlo al posto del pollice. Si attaccano gli stessi vasi sanguigni, le stesse terminazioni nervose, alla fine funziona come un pollice anche la sensibilità. Naturalmente è sempre un alluce. Qual è il problema? Il problema ormai non è più di rigetto, l'operazione riesce perfettamente, c'è una mano perfettamente funzionale con l'alluce opponibile, che è la maniera che abbiamo noi per distinguerci dagli animali. Abbiamo il pollice che si muove, che si oppone alle altre dita, quindi la macchina utensile è perfetta. Il problema è la riabilitazione psicologica. Le persone non hanno il coraggio di dare la mano alle altre persone perché hanno il dito di un piede al posto del dito della mano. C'è pudore, da qualunque latitudine vengano gli ospiti, hanno pudore a stringere la mano, perché è come mettere un piede in mano, che equivale, secondo la teoria dei nostri amici di Pulp Fiction, a mettere in mano un organo sessuale. Giuseppe Sansonna, buongiorno. Buongiorno. Allora, intanto definiscimi il quadro di Pulp Fiction. Questa puntata è dedicata al culto dei piedi, si è capito. Il culto dei piedi è presente nel cinema in maniera subliminale, a volte molto esplicita. Sei d'accordo? Questa è la scena chiave di Pulp Fiction. Se non ci fosse stato quel massaggio ai piedi, non sarebbe accaduto tutta l'orribile vicenda che vede anche il povero Marcellus vittima di un sopruso inenarrabile. Sì, Tarantino mette questo suo piacere personale per il piede che reitera continuamente nel corso di tutti i suoi film, e qui in Pulp Fiction viene teorizzato mentre stanno andando a compiere un atto criminoso, i due riempiono il tempo morto parlando appunto di questa discettazione teorica sul piede, il piede di Uma Thurman. Ma tu l'hai mai fatto un massaggio ai piedi? Non venirmi a parlare di massaggi ai piedi, perché io sono un maestro di piedi massaggiati. E ne hai fatti molti? Cazzo, ha una tecnica che levati, niente solletico, niente di niente. A un uomo glielo faresti un massaggio ai piedi? Vaffanculo. L'hai fatto a molti? Vaffanculo. Sai, mi sento un po' stanco, mi farebbe bene un massaggino ai piedi. Basta, hai capito? Cominciano a girarmi le tavole. Questa è la porta. Sì, ecco qua. Professore Andrea Pinotti, buongiorno. Buongiorno. Docente di estetica all'Università Statale di Milano, si occupa di teorie dell'immagine, rapporti tra estetica e storia delle arti visive, con particolare riguardo alla cultura e lingua tedesca dell'8 e 900. Recentemente a un convegno a Pordenone, arte, scienza e ambiente, ha tenuto un'importante relazione proprio sul piede. Lei è d'accordo innanzitutto su questa sorta di tabuizzazione che ormai è uscita fuori allo scoperto? È palesemente comunemente per tutti un riferimento sessuale il piede. Lo è nel film di Tarantino, che ormai è anche datato, ma lo è anche per i pazienti del professore di Taiwan, che non vogliono stringere la mano perché è come mettere un piede in mano a un altro. Assolutamente d'accordo. Tra l'altro, preparando proprio il mio intervento per il Comedy Pordenone, mi sono fatto il doveroso giro su Google e ho trovato dei siti molto interessanti che apertamente proprio teorizzano e celebrano questo feticismo sessuale del piede. C'è un sito che ha fondato un signore che dietro l'anonimato si nasconde dietro la formula allucinato appunto come da alluce, certo. Feticista dell'alluce, e ha riscontrato un grandissimo successo di post e di interventi di suoi appassionati lettori, che sono usciti assolutamente allo scoperto dichiarando tutto il loro amore e tutta la loro adorazione per il piede, che è parte del corpo, e per l'alluce, che è parte del piede, come lei giustamente adesso ricordava, la parte che più si presta a uno spostamento, ad un'interpretazione di carattere sessuale. Ecco, poi mi spiega una cosa, professore. Io vengo da una generazione, ho 60 anni. Nella mia generazione il piede era qualcosa da tenere nascosto. La nonna diceva i piedi con rispetto parlando, se li citava. Si vergognava di andare dal podologo. I piedi erano sempre chiusi, nascosti. E per noi ragazzi il piede era qualcosa che suscitava tutto più ilarità, ai preti gli puzzano i piedi, a quello gli puzzano i piedi, era qualcosa legato non certo a un'attrattiva sessuale, era più uno scherzo tra ragazzi. Cosa è cambiato a un certo punto nel costume per cui oggi anche il più quattone dei quattoni dice oh, mattizzano i piedi, così, come mai? Questo suo ricordo è molto opportuno ed efficace, perché tra l'altro è anche transculturale. Il grande Georges Bataille, che dirigeva questa rivista vicina al surrealismo, Document, a Parigi tra il 29 e il 30, ha scritto un articolo dedicato all'alluce, e lì cerca di ricostruire un po' quella che è la versione culturale per il piede, che è l'elemento che ci connette alla terra, al fango, allo sporco, e racconta che i primi missionari cattolici in Cina avevano dovuto adattarsi all'immaginario e anche all'immaginario peccaminoso locale. Li stringevano le donne, li massacravano i piedi, glieli chiudevano in delle scarpe d'acciaio. Esatto, e uno dei peccati per i quali questi confessori esploravano l'anima dei loro penitenti era appunto l'aver osato guardare i piedi delle donne. Una delle domande era: non ti sei toccato, hai avuto pensieri impuri, ma hai guardato i piedi delle donne. Questo è molto significativo. Quante volte al giorno? Beh, si sono aperti orizzonti ai bravi missionari, che poi una volta rimportati in casa si è diffuso probabilmente il senso del peccato e quindi del piacere legato al piede. Giuseppe Sansonna. Ma in radio ti ricordi che era censurato la parola piede? Si diceva alle vostre estremità. È vero. Poi tornando al discorso dell'alluce, in pieni anni 20 Buñuel con Dalì fa l'âge d'or, e c'è questa donna che succhia l'alluce di una statua. Qui siamo appunto nella piena temperie del surrealismo, e già c'erano, però queste pulsioni all'epoca erano tenute in maniera molto sotterranea, non erano esplicitate. Sì, ma era un vezzo aristocratico, faceva parte delle parafilie che soltanto persone di cultura potevano permettersi. Oggi diciamo il culto del piede, ma se lei va nei sexy shop di paese all'uscita della metropolitana, figura, trova le scarpe quelle impossibili, perché se le vanno a comprare devo ritirare su mio marito e via dicendo. Che le dicevo, ogni scarpa una camminata una diversa concezione del mondo. Comunque, volete stare comodi a casa vostra? Sì, fate quello che volete, ma non le pantofole. Le donne al limite possono mettersi le scarpe cinesi, anche se mi hanno lasciato sempre un po' freddo. Quei colori così decisi, rosso rosso, azzurro azzurro, nero nero, e poi quella specie di scollatura attraverso cui si intravedono alcune dita. Ma che mi vuoi provocare facendomi vedere un po' di dita? E allora le caviglie? Io non sto malissimo. Il protagonista di Bianca, Nanni Moretti, ha qualcosa a che fare con i piedi comunque. Molto a che fare, perché qui adesso è interrato nel basso di un seminterrato e quindi vede passare da lì solo i piedi delle persone e ne indovina l'anima, come farà Tinto Brass con un'altra parte del corpo. Lui lo fa con i piedi, cerca di ricostruire storie, pulsioni, anche reminiscenze prustiane, guardando gli occhi di bue di un bambino, che erano quelle scarpe. È lui che odiava le spadriglie scalcagnate messe col calcagno. Esatto, cioè ci mette molte delle sue pulsioni personali, un feticismo per i piedi che, come Tarantino reitererà in molti film, nella stanza del figlio apre un armadio ed è strapieno di scarpe per ogni momento della sua esistenza. Però tu eri un bambino povero? Sì. Io non è che ero poverissimo, ma ho sempre trattato da bambino povero. Quando eravamo negli anni 60, le uniche scarpe da ginnastica che esistevano erano le Superga blu con la punta, che naturalmente dopo un po' si bucava la punta, non valevano molto, e nostra madre ce le tagliava con le forbici, e c'era un periodo vergognoso in cui giravi con che il piedino era cresciuto, non ti compravano ancora quella nuova, e giravi con la Superga come il sandaletto dei bambini lì. È orrendo. Tu hai avuto questa esperienza? Ho avuto un'esperienza, sì, ma io ero a una scuola di coatti di Bari, però avevamo tutti la scarpa bombata che si usava a fine anni 80. Certo, sì. E io non ce l'avevo. Un giorno sono riuscito a strapparla ai miei e sono stato riaccettato proprio in classe. Mi ricordo proprio un momento iniziatico, cioè non ero più il nerd isolato dai coatti, ma addirittura un po' accettato. Tu c'era ancora quelle a punta, quei lacci neri da prete. Le scarpe d'anziano. D'anziano, quello ormai d'anziano. Melog. Cronache meridiane. Queste scarpette sono una vera tortura. Eppure sono un modello. Sa, vengono da Parigi. Guardi, Champs-Élysées. Tocchi, tocchi. Sono morbidissime, ma purtroppo mi fanno un male cane. Sì, signorina, sono molto fini. E quanto ti sono costate, Willy? Patricia, ti prego. Messieurs, faites vos jeux. Faites vos jeux, s'il vous plaît. Guardi, giochi il 34, io scommetto che esci. Ce lo dice lei? Dammi altri 2000 pesos, Willy. Prendi. Giuseppe Sazzotta, stiamo parlando di piedi, stiamo parlando del fascino dei piedi, dal piede siamo passati alla scarpa. Quei Buñuel che avevi citato prima, anche se non è lo stesso film. Sì, questa è Estasi di un delitto del 55, in pieni anni 50 Buñuel va in Messico e racconta questa borghesia corrotta, e qui c'è questa donna molto, questa vampa seduttrice che mette questa impone il gesto del sacrale, dell'erotismo a tutto un tavolo di giocatori accaniti a un casinò, quindi fa toccare la sua scarpa. E la vestizione della scarpa è calzare eroticamente il piede, mostrarlo come tale. Buñuel irride questo modo di usare le perversioni in maniera esplicita. Per lui la perversione è una cosa molto importante, ma da vivere nell'intimo. È quello che anticipa il discorso che facevi tu prima. Non è qualcosa da mostrare su piazza. Anticipa negli anni 50 quello che avverrà, la banalizzazione della perversione. È la difesa dell'aspetto aristocratico esclusivo di ogni perversione. Lasciateci le nostre perversioni, ma lasciateci le nostre, che non diventino qualcosa da supermercato. Invece, professor Andrea Pinotti, ricordo, docente di estetica all'Università Statale di Milano, oggi la perversione è una parola antiquata, non si parla di perversione ma nemmeno di parafilia. La passione per il piede è diventata un elemento abbastanza pop. Ma riusciamo a fare una storia della passione del piede per capire come ci siamo arrivati? Ma è sempre difficile stabilire come mai a un certo punto sia stato sdoganato questo feticismo del piede. Prima si parlava di Georges Bataille, di Buñuel, quella famosa scena di questa sorta di fellazio in l'âge d'or dedicata all'alluce di una statua. Io penso che molto abbia contribuito Freud con... le statue classiche diciamo che erano più dotate di alluce che di apparati propri alla fellazio. Piccolissimi. Più censurati, erano più... ridotti in una sorta di diminuzio. Guarda, i bronzi di Riace, se ne parla tanto, ma poverini, non stanno. Per fortuna che hanno gli alluci. Per fortuna hanno dei grossi alluci, sì. E quindi stavo dicendo che Freud scrive ai primi del Novecento una serie di testi sul tema del feticismo in cui ipotizza che il piacere che i bambini, che sono questi perversi polimorfi, hanno per forti odori corporei, innanzitutto appunto per la puzza dei piedi, possa prendere a un certo punto una strada che si divarica, perché viene per motivi così sociali, etici, condannata il piacere per il forte odore corporeo, ma al tempo stesso il bambino non vuole in nessun modo rinunciare a ciò che gli procurava così tanto godimento, quindi rinuncia alle sue pratiche di esplorazione nelle parti basse, però non vuole rinunciare all'oggetto del suo desiderio, al piede, che a quel punto lì diventa idealizzato, pulito, eventualmente messo in forma artistica, nobilitato, e in quel modo il bambino può continuare a godere di quell'oggetto del desiderio. Quindi lei direbbe che la teoria freudiana, che poi ormai lasciano il tempo che trovano, però avrebbe una sua probabile applicazione al fatto che oggi ci si lava molto di più, c'è cioè un'igiene personale molto, sì, io parlo di un'epoca in cui il bagno si faceva il sabato tutti i fratelli insieme, oggi ci si fa tre docce al giorno, quindi oggi il piede ormai è sdoganato nel suo aspetto pruriginoso e puzzoloso, quindi evidentemente e questo rientra anche poi in tutto il movimento tipico della nostra civiltà, che è stato un movimento di abolizione progressiva della dimensione dell'odore. Nel nostro olfatto si è progressivamente ridotto, ridimensionato, tutto vantaggio di altri organi considerati più nobili, come pari alla deforestazione femminile, ci sono tante altre situazioni, depilazione, cioè. Nella storia dell'arte invece esistono tracce di passioni di alcuni artisti, magari nascoste, subliminali, mascherate? È molto interessante fare un percorso ritroso, partendo, se vogliamo, sempre da Pulp Fiction, ma da un'altra scena rispetto a quella che era ricordata prima, che era relativa al massaggio peccaminoso dei piedi della moglie di Marcellus Wallace. Mi riferisco alla scena della gara di twist che Mia Wallace appunto fa insieme con John Travolta, alias Vincent Vega, grazie, sì, il suo evento fondamentale. E lì, se si guarda Mia che balla con i suoi affascinanti piedi nudi, si vede che Uma Thurman mette il piede in una posizione molto innaturale, praticamente verticale, ad angolo retto rispetto al pavimento. E partendo da lì si può ricostruire una storia molto affascinante di questa particolare postura corporea, che è particolarmente seducente, che impone anche, imprime a tutto il corpo della donna un movimento molto, molto lei che ha studiato la materia sa che esistono degli accessori, delle scarpe particolarmente fetiche che costringono a camminare in quella posizione, certo, inusabili, esatto, ma sono fatte apposta per quello, in cui il piede sta angolo retto. Esattamente, che sono proprio delle protesi che impongono quel tipo di postura. Ed è un tipo di posizione che aveva colpito l'immaginario di letterati e di storici dell'arte già agli inizi del Novecento. Proprio Freud aveva letto un racconto di questo Wilhelm Jensen, Gradiva, parlava di questo archeologo, il topos classico dell'innamorarsi di un bassorilievo, di una statua, che ha una sorta di allucinazione, un delirio per un bassorilievo conservato, peraltro effettivamente esistente, si era fatto fare poi una copia per il suo studio, è un bassorilievo conservato ai Musei Vaticani, in cui si vede una giovane donna che incede un passo molto, molto particolare. E in modo particolare proprio quella strana angolazione del piede sostanzialmente ortogonale rispetto al terreno che noi ritroviamo in Uma Thurman. Ecco, difficile adesso dire se Quentin Tarantino conoscesse e fosse consapevole di questa lunga tradizione che ci arriva addirittura dall'antica Grecia, perché questa figura è verosimilmente una menade che appartiene a celebrazioni cortei dionisiaci. Certo è che Jensen se ne era accorto a mettere in bocca al suo personaggio, al suo eroe di questa novella, questo delirio, questa fascinazione, questa ossessione, in modo particolare per il piede di questa Ma evidentemente esiste una geometria cosmica e assoluta legata alla passione del piede che attraversa i secoli. Questo lo dico anche perché probabilmente in questo momento la media famiglia italiana che ci ascolta sarà a tavola con i maccheroni davanti e stanno chiedendo alla moglie: passami il parmigiano. Quindi dobbiamo ritornare tranquillamente a evitare ogni possibile perversa sinestesia e diamo tranquillamente il saluto. Grazie Giuseppe Sansonna, grazie Fabrizio Intonti che ci ha lungamente assistito in questa trasmissione e grazie soprattutto al professor Andrea Pinotti che ha dato un senso alto e elevato alla nostra bassa cucina questa mattina.